Vi saluto anche a nome dell'assessore Tomasini e mi scuserete, mi accomodo intanto se non vi dispiace. Ecco, iniziamo con stasera le attività della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che ha questo interesse per il territorio, lo indaga, lo documenta. I libri che vedete su questi scaffali sono un quarto della documentazione che abbiamo catalogato e che mettiamo a disposizione immediatamente. Il resto è dislocato in un'altra parte qui vicino, in un altro locale, ma è sempre disponibile e a disposizione del pubblico laddove fosse richiesto. Questa biblioteca è pubblica, attualmente occupa questa sede provvisoria in attesa del polo bibliotecario, quindi fra qualche anno avremo piacere di ripetere oppure di presentare un nuovo libro del professor Dall'Aglio in una cornice più ampia e più ariosa, ma al momento è un po' intima e soprattutto almeno abbiamo anche il colore delle copertine dei libri che così, ci accompagnano in questi percorsi. La biblioteca ogni settimana apre al pubblico anche in questo orario serale con delle iniziative perché siamo convinti ormai da 10 anni che facciamo questo percorso che il libro vada fatto incontrare con l'utente, con il lettore, debbano essere create. Sì, abbiamo sistemato il microfono così che si può sentire anche un po', tanto lo lasciamo qua così, poi quando parla lei, sì. Siamo convinti che creare delle occasioni la sera, in un orario prima di cena, per così far conoscere gli autori o la produzione libraria sia importante, perché in questo modo abbiamo visto anche le persone tendono a ritornare in questa biblioteca e soprattutto a leggere i libri che sono qui esposti sugli scaffali e a disposizione. Se vi fa piacere ricevere i nostri inviti, prego, prego. Si accomodi. Se vi fa piacere ricevere i nostri inviti, noi chiediamo semplicemente di iscrivervi, è tutto gratuito, ma almeno abbiamo un indirizzo a cui recapitare le nostre cartoline, oppure un invito via mail qualora qualcuno avesse la posta elettronica. Iniziamo così questa sera, sulla sedia avete anche gli inviti per le prossime iniziative, con il professor Mario Dall'Aglio, che è stato uno dei primi, utenti, ma anche amici e sostenitori di questa biblioteca, perché ancora parecchi anni fa, penso già nel 2002-2003, ci eravamo conosciuti, era venuto qui a trovarci. E all'epoca stavamo raccogliendo del materiale per capire meglio quanto fosse stato organizzato in passato, nel passato recente, in questa provincia e in questa città, nel mondo artistico. Dopodiché, da questo contatto è scaturita anche un'amicizia, una frequentazione, ci ha regalato parecchie informazioni oltre che documenti e soprattutto ci ha rilasciato un'intervista. In quanto la biblioteca si sta raccogliendo ancora parecchie video interviste di personaggi, di donne e uomini che danno o hanno dato un loro contributo nei vari settori della nostra vita locale, e fra questi appunto abbiamo avuto il piacere di poter intervistare Mario Dall'Aglio. Sono interviste di taglio biografico e sul nostro sito trovate tutto l'elenco anche delle altre persone che hanno lasciato la loro testimonianza. Dopo tanti anni, dopo duro lavoro di raccolta, un lavoro certosino, forse in questo libro non c'è tutto, perché conoscendolo, almeno per quello che abbiamo visto, gli interessi sono poliedrici e le attività anche, è nato questo libro a corollario anche di quello che è stato pubblicato alcuni anni fa ed è un libro. Un catalogo sicuramente, anche perché c'è un apparato iconografico bellissimo che riguardano le opere, ma c'è una parte anche di recensioni e una parte autobiografica molto interessante e anche, permettetemelo di dirlo, emozionante, ecco. C'è un filo conduttore sempre che che riguarda l'arte, l'amore per la vita e l'amore anche per la sua signora. E questo è un plusvalore, è una cosa in più che non sempre si coglie in alcuni documenti, in alcuni libri. Abbiamo questa sera così anche preparato delle fotografie con la speranza che poi il professore ci dia una mano, ci illustri anche più da vicino alcune delle sue opere che ha selezionato e che ci vorrà spiegare. E io intanto partirei con una domanda, ecco, perché arrivare a fare un libro così, diciamo, impegnativo, ma anche ricco di tantissime sfumature? Com'è partita questa idea e quando? Ma io non era il primo volume che ho, non è il primo volume che ho realizzato, insomma, ho contribuito e collaborato a fare anche qualche altra cosa in qualche altra occasione, naturalmente non in questa dimensione. E questa dimensione l'ho dovuta anche contenere perché ormai in tanti anni di attività, più di 60 anni di attività, abbiamo assicurato un'enormità di lavoro e di materiale. Ho cercato di introdurvi dentro le cose, se non altro quelle di una certa rilevanza. Non ci ho neanche piegato poi tanto, perché secondo me in meno di un anno io sono riuscito a metterlo insieme questo libro. È che sono sempre stato piuttosto, e forse molto più di qualcuno di questi signori presenti mi conoscono bene e sanno che sono abbastanza, come si dice, ordinato nel raccogliere il materiale che va. Per cui ho messo insieme questo libro nel lavoro di un anno, ma devo dire la verità che mi ha dato anche mi ha fatto abbastanza lavorare, lavorare seriamente, perché cernere le cose più adeguate, più adatte, più cronologicamente, più valide, tutto questo insieme di cose. E poiché sono stato anche abbastanza laborioso e anche pubblico, nel senso che mi sono sempre esibito ovunque e dappertutto, anche all'estero, no? E allora è venuto fuori che poi mi sembrava abbastanza accettabile, no? Cioè, non sono io che devo fare il giudizio al volume. Ho cercato di tralasciare il meno possibile, soprattutto le cose che erano con dispiacere per coloro che magari non ho coinvolto. D'altra parte avrei dovuto fare un libro chissà come, no? Emergono in questo libro parecchi interessi, parecchie attività. Ci vuole magari illustrare alcune di queste? E in particolare potremmo iniziare magari con la Biennale? Ah beh sì, ma prima ancora della Biennale dovrei già citare un altro dei particolari, magari ancora più remoti, perché tutto sommato io, oltre che avere amore per l'arte, oltre che per essere ricominciato da molti anni fa a dipingere, a fare le brigate, ho sempre avuto anche il pallino di realizzare anche altre raccolte per altre istituzioni, no? Per cui una certa esperienza me l'ero anche fatta, nel senso così editoriale, no? E questa qui evidentemente non è stata proprio una, cioè, poteva anche essere più voluminoso, ma ho voluto contenermi un po', perché anche la dimensione è un libro che pesa 2,7 kg, però già è un libro di un certo peso, insomma. Sì, è pesantissimo, infatti, non lo so, quando l'hanno proprio raccolto e messo insieme, un accidente, tutto quanto, ma hanno anche dato una buona carta. Sì, infatti. Ecco, diciamo che poi ho lasciato fuori chissà quante cose di minore importanza, però non tutto, è anche ho pubblicato qualche testo che forse non era, non era effettivamente molto esilarante, molto, però ho fatto questo lavoro qua. E poi hanno saputo rilegarlo bene, insomma, la Temi di Trento, e l'ha fatto in maniera che mi ha dato molta soddisfazione, mi ha fatto anche 2000 copie, tra l'altro, 2000 copie, per cui chi ne vorrà sappia che ce ne sono ancora, ce ne sono anche distribuite se vogliamo. Per quanto riguarda poi la Biennale di Bolzano, la Biennale di Bolzano non è che ho salto, la Biennale di Bolzano è stata una mostra conseguente ad altre manifestazioni che io ho sempre avuto il piacere di organizzare, ma anche perché mi hanno chiamato spesso in giro anche a organizzare qualche mostra. È dovuto a questo fatto che io sono stato iscritto all'Albo dei giornalisti parecchi anni fa, e che quindi con la critica dell'arte, poi insegnavo storia dell'arte anche alla scuola oltre che disegno, e ho avuto parecchio richieste di collaborazione eccetera eccetera. Allora ho collaborato anche per qualche altra pubblicazione che qui non ho, e questo ho detto beh, adesso questo qui è il libro che mi riguarda, cercherò di farlo nel migliore dei modi, no? E quindi è così ho fatto. Però c'è in qualche altra zona, perché io ad esempio avevo molti buoni rapporti con altri luoghi, località italiane in Sicilia, a Rimini, in Regione, dove ho fatto anche lì qualche cosa. E poi le mostre ne ho fatte parecchie, un po' dappertutto, anche all'estero, come ben sapete, no? In Germania, in Austria, in Ungheria, eccetera. E non è che magari mi servivo di pubblicazioni che già possedevo magari, no? In certi, in qualche caso. Però sono stato abbastanza controverso, perché poi io ho frequentato molto e ho collaborato moltissimo con la Casa degli Artisti di Tenno per dargli un po' di incremento e anche far arrivare più gente, eccetera. Insomma, dove andavo a toccare, dove mi trovavo, lasciavo un po' l'impronta, no? L'impronta della mia presenza. Non era per megalomania naturalmente, no. Ma era sempre stato il desiderio quello di voler realizzare delle cose che avessero un seguito, insomma. In questo si intreccia anche la sua attività, diciamo, didattica. Didattica, sì, ma guardi che per me l'attività didattica è stata la cosa la più facile per me, più leggera, no? Da così. Perché non è che facevo la didattica solamente pratica, quella di insegnare a dipingere, insegnare. Ma io ho fatto della didattica anche di storia dell'arte, mi sono occupato nei licei dove ho insegnato, anche a Treviso, a Verona, eccetera. Ho tenuto anche dei dibattiti sull'arte. Adesso ormai ho raggiunto una veneranda età, per cui mi meraviglia, meraviglia me stesso di poter ricordare tutte queste cose, perché non è facile ricordarsi tutto quello che si fa, ma non finirebbe mai a raccontare tutto quello che sono riuscito a mettere in conto. Non faccio per un vanto, no. Perché c'è in un individuo, nasce magari la passione, la vocazione per fare certe cose, e la mia è stata quasi una vocazione, perché non mi interessava, non ero quello che è l'egoista che cerca di divulgare se stesso e proporre se stesso agli altri, ma ho divulgato, ho presentato molti altri con qualche pubblicazione, non con pubblicazioni vaste come questa, però ho dato una grossa mano a parecchi, a tutti, perché io non ho mai avuto un'idea. Se c'è stata una cosa nella mia vita che posso dire con la fronte alta, è che non ho mai, ho evitato sempre di criticare qualsiasi individuo, preferivo magari ignorarlo, che è ancora peggio, no? Piuttosto che criticarlo. E allora ho sempre pensato che era meglio che io, tanto di che mi danese, se qualcuno è più bravo di me, venga, no? Ho sempre ragionato in questi termini. Ecco perché mi è riuscito, perché anche adesso, anche in Ungheria, ho fatto delle, una cosa interessantissima, ho fatto una mostra importante e anche ho avuto un'accoglienza formidabile con un dibattito, eccetera. Ho anche in altri posti dove ho esposto, in Austria, e ho esposto un po' almeno in una ventina di stati di europei, poi c'è scritto tutto. Ecco, accanto all'attività didattica, la sua ecco, inclinazione al liceo, anche sì, per la promozione delle opere altrui, e c'è anche un'attività nel sindacato, ce ne vuole parlare? Sì, sì, ma la faccenda del sindacato non è che io l'ho inteso come sindacato difensore degli interessi degli artisti, allora, allora si poteva chiamare sindacato degli artisti o altro sindacato, che era un'associazione in sostanza, come si chiama, come libera di individui che si mettevano insieme per presentare, per fare del lavoro, per divulgarsi, divulgare se stessi anche, no? Ma io come sindacato anche dappertutto, quando ero a Verona, quando ero stato in altre località, ho fatto anche a Roma, ho organizzato qualche cosa un tempo. Però è perché è una specie di deformazione professionale, una cosa che uno proprio le fa perché le vengono fuori da lì dentro. No? E poi mi ricordo con la mamma della signora, la signora Fedeli, la pittrice Fedeli, che diciamo, si chiamava? Bisiani Fedeli? È Olga. Olga. Con quella siamo stati anche andati molto d'accordo, fin dall'inizio. Era una persona molto impegnata, molto brava, e poi aveva talento anche, se vogliamo, mica poco anche. Faceva una pittura figurativa piuttosto moderna, piuttosto aggiornata, diciamo, meglio così. Non astratta, non... Però aveva una cifra personale, perché poi avevo saputo una disinvoltura, una velocità nel fare le cose che mi sorprendeva. Abbiamo dipinto anche insieme qualche volta, con la mamma della signora. Per cui poi anche tra i miei colleghi ho sempre trovato un certo seguito, una certa conoscenza. Io ho organizzato anche persino su a Coso, in Val, come si chiama? Nel Trentino, insomma, ma un po' dappertutto. Altro, mi devo un'imbeccata ancora. Ah sì, l'imbeccata gliela do subito. Ed è una cosa che mi ha sempre incuriosito, ed è il modulo. Beh, il modulo, dire la verità, io ho fatto per alcuni anni, per diversi anni, sono partito da basi figurative, proprio realistiche e veristiche, perché io ho sempre considerato che, sì, uno può partire anche dalla pittura statica, non voglio mica dire di no, però io l'ho sempre paragonato, ho fatto un parallelo che non calzerà molto, però quello che parte con l'astratto subito è come la gallina che si trova dentro in un pollaio che va avanti e indietro nella parete per sapere, convinto o nella speranza di trovare un buco per uscire, e non usciva. Invece se uno partiva dalla pittura figurativa, cioè se la studiava dalla figura del corpo umano, e io ho cominciato da lì, proprio ho studiato la figura umana da anatomicamente eccetera, dalle origini, proprio, frequentando dei corsi adeguati. Dopo naturalmente ho superato questa esigenza, ho voluto saltare il fosso, cioè sono voluto passare dall'altra parte perché non era possibile arrabattarsi sempre sulle stesse cose, sugli stessi lavori. E così a un certo momento ho detto toma, e ho cominciato a mettere giù degli elementi, ma soprattutto con la scultura più che con la pittura. Sono passato a questo tipo di lavoro, e già parecchi anni fa, e dopo ho perseguito la mia strada, però ho sempre evitato di ripetermi, la ripetitività, cioè se io facevo il modulo è chiaro che il modulo lo metto in mille salse, però rimane sempre il modulo, no? ma non era una cosa sempre ripetitiva nel senso compositivo, nel senso... Ecco. E quello lì mi è capitato così, no? Che io mentre mi ero inventato di fare in un concorso a Faenza, a Ravenna, facevano una biennale della scultura moderna, della scultura contemporanea, ero di invitato, avevo partecipato anche qualche volta, per qualche un caso due, però un giorno, la seconda volta che io andai a dire l'adesione, ho detto guarda, non posso mica ripresentare le cose che ho fatto, perché mi ricordo che avevo rappresentato un'immagine, delle immagini dantesche quasi dentro in una specie di nicchia, era un lavoro abbastanza figurativo, abbastanza accettabile, però ho detto no, devo fare una cosa diversa, e infatti mi sono inventato di inventarmi un modulo, perché avevano dato una dimensione massima, ricordo sempre esattamente queste cose, 40 cm per 40, la scultura non doveva superare i 40 cm per lato, ed è cioè una profondità, altezza e ampiezza. Allora io ho fatto, dico, adesso cosa faccio? Faccio un cubo. E ho fatto il cubo. Adesso lo buco questo cubo e faccio un vuoto sferico. E ho fatto una specie di vuoto sferico, no? Cioè ho fatto in maniera che fuoriuscissero nei quattro lati, negli otto, nei sei lati, dimensioni proporzionate, cioè 40, 10, 10, 20 e 10, dimensione proporzionata. Poi ho detto, ma adesso non basta mica questa faccenda qua, dico, perché come faccio? Metto dentro qualche sculturina che la vedano dentro, no? Allora dico, lo taglio in quattro, ho tagliato in quattro sto cubo, no? Fatto in questo modo. Che mi è capitato in mano uno di questi cose, di questi elementi, eccolo qua quello che cercavo, ho detto, no? E da allora ho sviluppato tutto su quel modulo, in quel modo lì. E vi dirò che ho avuto tante soddisfazioni, perché ne ho dipinti, ma ne ho realizzate migliaia, poi forse 2000 opere di queste. Se non solo, no, in scultura meno, naturalmente poche, non molte, ma in pittura ho sempre... Era la mia salsa quella lì, insomma, in sostanza. E ho fatto parecchie di questi lavori. E il modulo l'ho scoperto in questo modo, quando io proprio divisi questa scultura, questo blocco cubico in quattro parti, però che avevo intenzione di tenere staccate nella composizione, non unite, legate insieme, e quando le ho staccate così, e poi che ne ho prese in mano uno, ho detto, eccolo qua, e ha fatto come al solito. Ah, ecco, quando cosa ho scoperto il virus, non mi salta fuori il nome del scienziato recente, come l'ha scoperto il virus contro le malattie? L'ha scoperto nel senso che lui si era dimenticato una cultura, e poi dopo la distanza di tempo, adesso non ricordo come mi era in mente, Fleming, e infatti si è dimenticato la cultura, là poi ha visto, cavolo, che tutti i germi stavano lontano da una certa cosa, non andavano, non avevano il virus. Ecco che aveva scoperto l'antivirus. E così è successo a Fleming. Ora, adesso non vorrei più portare avanti altre chiacchiere, se vuole chiedermi qualche altra cosa, sono naturalmente molto lieto di rispondere, ma non vorrei stancare troppo sulla vicenda. Se dovranno qualcosa. Io proporrei questo. I miei collaboratori hanno preparato alcune fotografie che lei ha selezionato, che stanno andando. Se vuole commentare qualcosa. Anche così, sì, spiegarci, vuole spostarsi qua indietro, così. Ecco, questa qui è una delle prime composizioni estate che io avevo in mente di. Adesso lo facciamo andare più lentamente, così ecco, così riusciamo. Qui c'è il modulo. che fare pittura, io lo dico perché vedo qua molta gente che è interessata, che segue la pittura attentamente e anche fattivamente forse, non basta solo, io ho superato subito la faccenda del figurativismo, anche se se ritenevo indispensabile approfondire l'aspetto figurativo. Ah, è questo che... Sì, fa un po' di rumore. Ah, perché c'è una... C'è un filo pieno. Allora avevo pensato di superare questo aspetto perché mi sembrava piuttosto anche più banale, poi l'avevano fatto in giornale. Allora ho detto, devo trovare un elemento che mi sa, ma ho fatto per diversi anni però pittura espressionistica astratta, per alcuni anni ho fatto per... A un certo momento ho detto no, devo trovare un oggetto, un qualche cosa che sia rappresentativo, autorappresentativo. E allora ho fatto uno di questi elementi qua cubici, ho fatto un cubo con un vuoto sferico, poi l'ho tagliato a metà e poi quando l'ho aperto così ho detto ma guarda un po' cosa che è venuta fuori, e questo qui dico è un elemento singolare, unico, nessuno l'ha mai fatto. Infatti nessuno mi può imitare, no? Chi è che mi imita, che può fare? Se no, il copyright. E allora sono andato avanti per quella strada, no? Dopo qualcuno mi diceva ma ti sei inventato un modulo, perché non te ne inventi un altro? Ho detto comincia a inventartene uno tu per favore. E dopo vediamo se mi riesci. Avrei potuto anche inventarmi un'altra cosa, ma quello perdevo poi la traccia, no? Perdevo la strada. Ecco, questa qui è la bandiera modulare. La bandiera modulare che simula un po' la bandiera americana, no? Gli elementi sono uguali. Al posto delle stelle ci sono messo i modulini, no? Ma se no amplifica l'impostazione della bandiera statunitense. Sì. E questo qui, quell'altro era già scappato. Questo qui ho fatto, questo è uno degli ultimi, di più recenti, una concitazione tra moduli e volatili, perché ho fatto ancora di quadri con i volatili, eccetera, no? Concitazione, nel senso che c'è stata una battaglia tra i moduli, cioè in corso, e i volatili che girano intorno, no? Allora, uno però l'ho messo là immobile, perché una di queste che frequentava il mio studio mi ha detto, sa che ho visto, quando avevo visto il quadro, quando stavo facendo il suo quadro, ho visto, lei forse... No. Ma ho visto uno di questi gabbiani fermo su un paletto che era una bellezza vedere. No? Allora ho fatto vedere niente di quello che ho detto, uno là in posa e sono tutti gli altri in movimento, no? E anche un quadro abbastanza grande questo qui. No? Quindi l'ho fatto un paio di sedute, insomma, o così di lì. E questo qui è invece tutta un'altra natura, perché questo qui l'elemento astratto, informale, è presente ovunque, non c'è nessun riferimento ad altri oggettivi, no? È tutto informale e astratto. Il gioco era nei colori, nei gialli e nei cose, nei rossi, che si anteponevano agli azzurri, ai viola, eccetera. Quindi questo qui anche è abbastanza grande, una dimensione. No, ma quello su carta di Gigi, ma dove era la bozza questa qui? Ho fatto anche più grande. E questo l'ho fatto a Sottomarina. A Sottomarina quando nel periodo figurativo, e mi ricordo che questo qui lo feci, c'era una trattoria lì vicino, tanti anni fa. Ho detto, guardi che c'è cultura, sa, dice, c'è da aspettare per... Allora io quel blocco da quella mi sono messo da una parte e ho fatto questa quella in 20 minuti o mezz'ora più di lì. Ho fatto questo corello. La marina di Ravenna. Sottomarina, scusa. E questa è la data che ho interpretato mia moglie, poverina. Se n'è andata 3 anni fa, poveretta. E questo però i colori quando non sono stato, non c'era la diapositiva, la pellicola non era molto buona. Comunque, e questo qui invece, questo qui, vinci il primo premio per la pittura, ma guardi quella volta lì, insieme a Plattner, a Ortisei. Questo quadro qui che io, ma perché lo vinsi? Ma per la novità che avevo innescato io in questo quadro. Ora, era una mostra a concorso su Ortisei, che l'ho fatto tanti anni fa, 30-35, e sì, venne anche Plattner, no? E ci diedero il primo premio esequo a me e a lui. Io credo che siano rimasti molto suggestionati dal fatto non solo della stazione figurativa in generale, ma dal fatto che io abbia reso spigolosa questa fetta d'anguria. No? Nessuno mai si era sognato di rendere una fetta d'anguria così spigolata. No? Credo che sia stata quella. Comunque fui contento perché è ben da un periodo molto indietro. Questa è stata il mio volo col gattino, i colori sono piuttosto, non sono indovinati purtroppo, è difficile sa fare le fotografie. Però avevo un biciclo che era una birba, era divertentissimo, no? E poi si metteva sempre in grembo lui, o me o mia moglie, no? E stavo volentieri così, e allora fece un quadro che ricordasse mia moglie questo biciclo, che poi c'è stato ammazzato da qualcuno dopo qualche anno, un anno, due anni, perché avevano disseminato i bocconi avvelenati nel giardino, nel cortile, per altri gatti magari, no? E così ben morì. Me lo ricordo tanti anni fa, questo che abitavo ancora in via Dalmazio quasi. E queste qui sono due, naturalmente, due cicogne. Purtroppo i colori è difficile indovinare i colori per le diapositive e anche perché indovinare bene i colori bisogna usare del tempo per farlo. Io fotografavo i quadri immediatamente mentre come trovo, non avevo tempo per riorganizzarmi poi. E questo qui è anche un paesaggio che poi avrebbe un cielo molto più ampio, tutto su una variazione di rossi e del bruno che ho visto di là, che è stata un po' tagliata sopra questa foto. Si vede appena la firma. La foto è purtroppo, il quadro era un po' più grande, più regolare. E questa qui è anche, fa parte del periodo astratto, espressionista astratto. E immaginai una figura, c'era anche stato un momento un interesse per l'espressionismo, no? Però questo qui era monocromo, possiamo definirlo, non so, a tinte uniche, ecco, non tinte alternate. Questo qui non era stato neanche male. Ecco, queste qua anche, queste rose che... Cioè, non so se c'era ancora, ma non so se c'era ancora o se ce l'ho dato a qualcuno, non mi ricordo più. Era un quadro che apprezzava molto che la mia povera moglie. Ecco, solite figurine slanciate, materico, questo. Però molti mi chiedevano se adoperavo la cera per dare quel rilievo, le cose così, no? E dopo, invece io avevo scoperto, non è che la fossi per caso, perché lavorando, mettendo a posto i miei quadri, alle volte mi è capitato di operare il Vinavil, la colla Vinavil, e un giorno per caso mi è andato sopra una goccia di mordente mogano all'acqua e ho visto che ha fatto degli effetti strani. Allora, porca miseria, e ho fatto una serie di quadri con questa, facevo le impostazioni con il Vinavil, le immagini, le figure, quello che era, e poi passavo, secondo con allungata con l'acqua o meno, il mordente mogano, quello che si scioglie qua, e dopo le fissavo con la vernice. E questi ne ho fatti tantissimi di questi quadri. E questo invece è abbastanza banale, insomma, è figurativo, Ma perché a volte mi venivano anche chiesti così, questi quadri figurativi, questo è l'olio. Ecco, questo era anche un'interpretazione per il premio, l'ho fatto per il premio Susara. Il lavoro, i lavoratori nell'arte, il tema era, no? Che cosa potevo fare? Io allora ho pensato di fare una figura, un'immagine femminile che mentre cuciva o faceva la maglia o qualche cosa, ma lavorava, ecco. E lo mandai a questo mostro. Perché anche quella mostra lì era per accettazione e venne subito accettata. O su invito per quelli molto noti o per accettazione. Tanti anni fa, ed era un'opera anche abbastanza dimensioni abbastanza ampie. Questo qui ce l'ho ancora, questo qui l'ho fatto anche qualche tempo fa, è tutto ad olio, e con delle finezze che qui purtroppo la pellicola è un po' sbagliata, no? Forse ne rimane fuori anche un po', mi pare. Ecco, vedi? Ecco. E ci sono tutte queste variazioni sfumature. Perché mi è piaciuta anche la poesia in certo qual modo nella pittura, no? Cioè dà una sensazione anche di poetica quasi, questo mutamento di tonalità, eccetera, no? Nel senso pittorico si intende. Questo qui lo fece anche per un concorso per Susara. Io ho partecipato a moltissime mostre fuori Bolzano, mi invitavano, allora sono andato un po' dappertutto e poi io avevo molta ammirazione. Voi mi direte, ma come mai? Io ammiravo anche, lo sentivo molto criticare, ma ammiravo molto Plattner. E io con Plattner devo dire che siamo stati molto amici e io non è che mi sia ispirato, perché è un altro tipo modello di pittura, però aveva questa gestualità nell'impostare le immagini, no? Che a me piaceva. Magari io l'imposto in una maniera un po' diversa, però questo me l'ha, lo spunto un po' me l'ha dato Plattner. Lo dico di quello che è vero, insomma. Se lei ha visto, lei conosceva tutti i Plattner. No? Ecco, questo qua non è che non è platneriano proprio, perché io ho sempre questo mio modo piuttosto espressionistico di buttare giù le cose, invece lui era curato nella stesura delle tinte, delle tonalità varie. E anche questo un po' esagio, buttato così, però che trova il senso. Perché non è facile dare il senso prospettico usando delle tonalità abbastanza accentuate e forti. Io ritenevo, adesso la riproduzione, non la vedo neanche da anche che siano state più forti o più deboli, cercavo sempre di avere la terza dimensione, la profondità delle cose. Ecco, questo qui l'ho fatto perché un mio nipote mi ha detto: "Ma non mi fai una Venere, ma dico, non ti posso fare una Venere?" Sì, ma la penso. Allora io ho preso, non mi ricordo, l'ho anche citato, ho fatto questa immagine, adesso non è tanto che l'ho fatta, ma non so se l'ho scritto anche. 2004. Io ho fatto queste immagini perché non è così piatto, perché qui la riproduzione, la diapositiva non era molto bella, sennò c'era un po' pittorica anche la diapositiva. Era un po'. Però c'è questo movimento, no, che mi piaceva. E poi da Murillo, da qualcun altro, avevo visto una cosa. E queste due rose visto al naturale, è un quadro, ce l'ho ancora questo qui. Questo è bello. Sì. Questo è un quadro. Qui non dice niente. L'ha visto lei, no? Sì. Ma che si vedono le sfumature di rossi, si vedono. Sì, molto vivo, molto. Ce l'ho, sono nello studio, disposti in vetrina dietro. Mm-hmm. E questa qua è una cascata di moduli, una cascata modulare. Ma questo qui era un po' antecedente, del 67. E questo qui era un po' più geometrizzante, perché ho basato l'impostazione con le varie sfumature per dare il senso della profondità e dal primo piano fino agli ultimi piani, no? Usando le sfumature digradando sempre un po' la sfumatura principale, no? Digradandola e così ha preso un po' di profondità. E questa è una scultura che ho messo insieme così. Non è tanto grande, però sono queste sculture, fino adesso nessuno me l'ha ancora chiesto, forse le faranno un giorno. Sono fattibili in dimensioni enormi, anche basta misurare le proporzioni, sono fattibili in chissà quali dimensioni. No? Queste sculture loro hanno fotografato, anche questa qui. Anche questa qui è alta un metro, però è possibile farla chissà in quante dimensioni. Come possono ben vedere, sia pure la monotonia rappresentativa del modulo, però le composizioni erano una continua variante, no? Cioè, ho sempre cercato di fare delle forme diverse, ecco, tutto lì. E ne fate molte. L'ha brevettato? Prego? L'ha brevettato questo? L'ha brevettato? No, se l'ho brevettato. Ah no, ma non so. Non ti hai brevettato, perché uno se la copia, se la fa uguale, l'avevo già fatto io anni fa. L'ho pubblicato in tanti libri dappertutto. Perché anche brevettare un'opera d'arte, genere si brevetta. Si brevetta un progetto, una decorazione, un'illustrazione magari artigianale, roba così, ma un quadro, una cosa, nemmeno per me non ci ho mai pensato. Né. E questa qui, questa è di bronzo, che non è poi tanto grande, però come si vedono gli effetti, no? C'è tutta una vibrazione. No? E questo qui è uno dei primi lavori che io ho fatto quando ho studiato. Sì, ho studiato un busto ellenistico, però basta vedere la soluzione chiaroscurale al tratteggio com'è, no? Un busto ellenistico è uno dei primi disegni che ho fatto io come disegno, tanti anni fa. 54. Ah. E questo qui invece l'ho intitolato il gruppo modulare e l'ho fatto, vedete che c'è la scomposizione modulare di un ritratto, l'avevo intitolato. Ecco, si vede il ritratto là sopra, le mani qua, che ha in grembo qualche modulo, no? L'immagine. E lassù c'è appare la testa, però bisogna cercarla quasi, non so, non credo che tu ti sia accorto di colpo. Sì, perché visto che è così grande si vede molto bene. Sì. Mani e viso. Sì, adesso sì che si è fatto. Questo qui, ecco, anche questo è un altro disegno ed è abbastanza grande, perché va 50 per 70. Allora, questo qui. No, il filo qua sotto, questo qua, sai? Se lo tiene qua così. Allora, questo qui ad esempio è fatto proprio di getto espressionistico, proprio tazzata, e ho voluto fare questo incontro fra due figure, fra due immagini. No? Infatti, è intitolato l'incontro, mi pare. Questo qua è il lettore di giornale. Ti fate il lettore di giornale. No? È anche abbastanza grande. però come potranno vedere, questo qui ho fatto più elementi in un quadro, ho voluto mettere sia la figura nel paesaggio, volatili, e poi i volatili e la vegetazione, una cosa vegetativa, quella lì, su un piano qua, a scala, la cosa. E questo è uno dei primi che feci in senso pittura astratta vera e propria, perché c'era un po' una corsa all'astratismo, c'è stato un periodo di tempo che io ho fatto molto figurativo prima, abbastanza insomma, ecco, perché sono sempre stato della convinzione che per diventare un buon pittore uno deve prima fare un buon figurativo, poi dopo deve passare piano piano all'astratto. Non è che si possa passare direttamente all'astratto, come ho già detto prima, è una cosa abbastanza occasionale e diventano tutte improvvisazioni, no? Non diventano costruzioni di improvvisazioni. Anche questo qui c'è il senso delle parvenze modulari, ho fatto anche questo non molto tempo fa. Questo l'avevamo già visto prima. Comunque, ecco la scacchiere. Anche le scacchiere ne ha fatte tre quattro qualità. Una ce l'ha il Marta di Rovereto, una ce l'ha il Museo di Trento, una ce l'ha il Museo di Bolzano, la nostra pure. E forse una la ce l'ho anch'io. Forse, perché non mi ricordo se l'ho a Verona, ma a Verona non credo. Avrò un'altra cosa. Questa scacchiera, come possono vedere, ho fatto i scacchi modulari. scacchi modulari. Ecco, vedete qua. E allora dovevo assemblarli, poi facevo il modello, poi ne facevo tanti a sé, poi li assemblavano quella cosa. E questo qui è un aspetto del lago di Garda dove io avevo lo studio a Torbole, che è sulla sinistra andando in giù da Garda, a sinistra andando giù, questa conca qua. E allora ogni tanto la mia moglie mi dice, ma fai qualche quadro anche un po' figurativo, allora questo lo feci ed ebbe anche un certo paesaggio gardesano. Ecco, anche questo qua, perché c'erano sempre le regate, no? Sul Garda, tutti gli anni c'erano queste regate. Allora ho detto, perché questo Monte Brione, questo monte si chiama, perché non fare, dico, la voglio anche immortalare, una regata, tutti gli anni la fanno. E quella volta lì mi sono messo lì, avevo lo studio a Torbole per cui, sotto le mie finestre passavano. Ecco, allora avevo quella casa laggiù, quella più alta, bianca, la abitavo al terzo piano. 100 miglia si chiamava. Me lo ricordo, sì. E questo qua invece tre elementi in un quadro, questo è un quadro che ha come si chiama, la Volvo di Verona, l'agenzia Volvo di Verona, che l'ho cambiato praticamente con poca differenza di soldi, perché voleva anche qualcosetta per una macchina. certo, 80% elementi sono, non era una dimensione tanto limitata, no? Cioè, e gli piaceva molto, però il colore, ha perso i colori, questa diapositiva non è buona, perché sono dei bei colori dentro. E poi ci sono elementi vegetativi, come l'acqua dell'albero che va su, elementi là modulari, e poi volumi che corrono, insomma, anche qua sembra un come possiamo dire, la parvenza di un elemento vegetativo in una vecchia roccia, in una vecchia... eccolo qui, si vede meglio, no? Con quel pesce là, con quelle forme strane, le radici sotto l'albero. Anche questo è un quadro molto grande. L'abbiamo già vista. Siamo arrivati alla fine. Sì. Finita, era sì. Beh, questa è stata la mia avventura, una volta la mia avventura, ne abbiamo visto una parte, ne ho dipinti migliaia, anzi, sicuri di 2000 quadri, sicuri, no? Perché qualcuno ha piacere di fare qualche domanda al professor Dall'Aglio? Guarda, proprio è qua. Qualche curiosità? È qua che cosa? Ma sono tutti i microfoni di solito fanno. Sono quelli senza filo che qua si scaricano subito. E... non so se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, non so che riferimento. Ecco, altrimenti il catalogo è qui a disposizione, ne abbiamo alcune copie da prendere in prestito, altre sono qui a disposizione del pubblico. E una cosa che posso dire è che ho trovato, una cosa che posso confermare è che non ho mai trovato delle difficoltà oggettive a fare queste cose, però ho sempre fatto una certa spirito di certezza, senza timori, mamma, se faccio programmi di più dolore, sono sempre andato via così. Forse era il destino che dovessi fare, che mi portava a fare queste cose senza molte difficoltà. Infatti c'è anche le mie monografie, anche questa qui c'è dentro di tutto, no? Ecco, questa era la prima sfera di bronzo. La prima sfera. Infatti così. Facci una domanda. Prego. Lei ha insegnato a tantissima gente. Quante persone sono diventate famose, conosciute? Lei lo sa? Della gente che è venuta ad imparare da lei? Ma adesso io, questa è una domanda abbastanza difficile, anche perché generalmente perdo poi i contatti con queste, molte aziende. Molte... Che qua, a quante persone avrà perché insegnato? Io ho insegnato anche a Verona diversi anni. Sì. No, a quante persone avrà insegnato? Oh. Insomma, avrò avuto almeno 2000 allievi, anche di più, sì. Ah, però il problema mio è che non potendo fare, io insegnavo, cioè loro erano liberi di fare a modo loro le loro cose, non volevo mica guai nessuno, si è mai messo a fare, dopo l'ho fatto così solo per gusto di ricordare la mia pittura, qualche caso, non tanti, però se il senso è stato figurativo, ne ho avuto parecchi. Qualcuno ha avuto anche successo in genere, no? Quando ha trovato un modo personale per realizzare le cose, perché purtroppo il pubblico è abbastanza avanti, no? Soprattutto gli intenditori, quelli che si occupano, allora vedono se uno è adattato e... No, era una curiosità perché siccome so che lei ha avuto tantissimi successi. No, ma sì, adesso loro non mi danno notizie dei loro successi, però so che più di qualcuno insomma poi ha fatto stare. Però non poteva farla nel senso nella mia direzione, ecco. Tutto no, non intendevo quello, insomma. C'è un'altra domanda? Sì, io so quanto lei abbia amato sua moglie. Volevo chiederle che influenza ha avuto sua moglie sulla sua arte. Darsi questa? Che influenza ha avuto sulla sua arte? Sua moglie? Dunque, mia moglie ha avuto una grandissima influenza. Perché? Siccome perché noi ci siamo conosciuti che avevamo 16 anni e mezzo. E l'ho conosciuta in stabilimento perché io ero disegnatore tecnico. Facevo disegnatore tecnico però a quel tempo là. Allora ero già occupato alla Lancia, come disegnatore tecnico. E quando io un giorno passando, magari come mentore, mi era entrato a scrivere un occhio perché noi disegnatori tecnici dovevamo fare un giorno alla settimana nei reparti di lavoro. Dovevamo andare nei reparti di lavoro per vedere cosa facevano con i nostri disegni. E dovevamo fare il giro, tutti i disegnatori tecnici erano costretti a fare. Io avevo scelto il lunedì, quell'altro l'altro giorno. Allora vado un giorno lì e vedo questa ragazza, no? Cosa fai tu qua? Dice, lo stanno per assumermi qua a stabilimento, no? Ah sì, aveva auguri, allora dico però. E poi sono andato, a me è piaciuto su di per lì, mi ha trovato anche molto simpatica, anche la risposta senza tante reticenze, subito. E poi l'ho vista dopo una due settimane o una roba così, mia moglie, no, mia sorella, che aveva una sorella che lavorava anche lì, lavorava con questa e con la sua sorella, cioè la sorella di quella mia moglie e questa. Allora un giorno mia sorella le porta a casa mia, e in quel tempo lì c'era la guerra, non sapevano dove andare a sbattere la testa ad abitare. Allora non si trovava da nessuna parte, aveva un cugino di loro, erano due sorelle, le ha ospitate per alcuni giorni, poi ha detto guardate, dovete cercare di sistemarle altrove, perché i tedeschi le portavano in Germania quelle ragazze, quelle donne, quelle persone che non avevano un lavoro collocato e con residenza, li portavano in Germania. Allora per invitare la Germania un loro cugino di queste due ragazze le ha portate a casa sua, le hanno aspettate fino a che poi hanno trovato che mia sorella, che hanno fatto dei tradici. Allora mi ha detto, queste due ragazze me le tengo in camera con me e sono rimaste con lei. E io sono rimasto con mio padre perché la famiglia era sfollata, no? E così l'ho conosciuta lì, no? E si vede che siamo andati subito in simpatia ed è nata una cosa che siamo rimasti insieme 64 anni. È una cosa così, ma mia moglie, per quanto riguarda l'aiuto, la solidarietà avevo sua, perché a lei un po' perché piaceva la pittura e un po' perché non gli dispiaceva come dipingevo, e allora mi ha sempre sostenuto, ma mai che mi aveva detto sai avrei da andare di qua, avrei da andare di là, avrei la salita di dipingere a fare, mai. No, se casomai mi diceva se ti hai qualche impegno oppure poi no, non sei tu da andare da qualche parte, non ci andiamo. Ecco, c'è stata una comunione così, un accordo, che è stata veramente per me una sorpresa formidabile, perché non è facile. Poi a lei forse piaceva anche il mio modo di realizzare le cose, così per... Ed è, siamo rimasti insieme 64 anni. Se vuoi aggiungere qualcosa. Ma io direi che loro è un peccato aggiungere qualcosa dopo queste frasi. Sì, la ringrazio tantissimo perché ha portato qui in biblioteca una bellissima testimonianza, non solo artistica di alto livello, di storia della nostra terra, ma anche umana, direi, ecco, per quello che lei ci ha trasmesso questa sera. Grazie a voi ancora di essere venuti e se volete tornare a trovarci, ecco, avete la possibilità di lasciare il vostro indirizzo. Grazie.